e dall'altro gli offre l'opportunità di fare affari e tessere trame con l'Occidente e soprattutto con l'Italia. È lunga la lista delle partecipazioni azionarie dei fondi sovrani libici. A inaugurarle nel lontano 1976 è l'accordo con la Fiat. Ulteriore colpo di scena, Gheddafi diventa, dopo l'11 settembre, un prezioso alleato contro Bin Laden e il terrorismo. Inoltre, accetta l'idea di riformare la Libia. A chiederlo è soprattutto suo figlio, Saif al-Islam, che avrebbe dovuto essere il suo successore. Ma il tentativo è timido e la Libia resta una dittatura, anche se non ha più i tratti sanguinari dei due decenni precedenti. Così la giornalista Hennas Ahmeda e poi ancora Romano Prodi. Il progetto riformista puntava a una trasformazione radicale sia della società che delle istituzioni che governano la Libia, che sono ancora quelle di 40 anni fa, della rivoluzione del 69. Volevamo una nuova costituzione, maggiore libertà di stampa, una magistratura indipendente, ma c'era bisogno di tempo. La ribellione e poi la guerra hanno fatto saltare tutto. Adesso Gheddafi non c'entra più, ma la Libia, il popolo libico e la Libia ci sono ancora. E il problema di questa relazione con l'Italia, gli interessi non solo economici, ma anche di tanti interessi economici si pone, e credo che siamo abbastanza spiazzati. Riprendere il ruolo che avevamo prima non sarà semplice dopo questa guerra, perché sono cambiati i rapporti di forza. Amedeo Ricucci, giornalista, inviato del TG1, autore di questo documentario su Gheddafi, e tu stesso hai subito un rapimento in Siria. Che idea ti sei fatto dei quattro connazionali rapiti in Libia? È opera degli scafisti? Ma questa mi pare l'ultima delle trovate propagandistiche, secondo me. Tutti i giornali di oggi? Sì, su tutti i giornali di oggi, ma io mi permetto di dubitare fortemente di questa lettura del sequestro. Io sono stato in Libia diverse volte, l'ultima volta 3 mesi fa. La premessa che faccio è che il puzzle libico è talmente complesso oggi che le semplificazioni rischiano di essere molto false. Molto, ma chi sarebbe stato allora? Ma io mi attengo ai fatti, non ero lì con i quattro tecnici sequestrati, però conosco molto bene quella zona e so che la zona in cui loro sono stati sequestrati, cioè fra le città di Zawiya e la città di Zuara, è una zona che è contesa da tempo da miliziani di opposti schieramenti, le milizie di Zintan e dei Washfan, che fanno capo al governo di Tobruk, quello per semplificare che è riconosciuto dalla comunità internazionale, e le milizie berbere che invece sono alleate con il governo di Tripoli. Se ci atteniamo ai fatti dobbiamo tener conto di due cose. Innanzitutto l'ENI è una delle pochissime multinazionali che ha continuato ad operare in Libia anche dopo l'inizio della guerra civile nel 2014, esattamente un anno fa. L'ha fatto perché è riuscita l'ENI a fare degli accordi con le milizie locali proprio nei posti dove c'erano gli impianti. E quindi quale sarebbe il motivo del rapimento? L'impianto di Mellita nel 2014, la sicurezza dell'impianto di Mellita nel 2014 è passata alle milizie berbere. Io le ho intervistate davanti al compound e loro hanno orgogliosamente dichiarato che erano lì per difendere gli interessi dell'ENI e dell'Italia. In passato per Ma è pochissimo tempo, quale sarebbe stato il motivo? Il motivo è una vendetta nei confronti dell'Italia, molto probabilmente, una vendetta legata quindi al gioco delle milizie, oppure il gioco si fa più complesso, una vendetta legata al ruolo che l'Italia sta avendo nel piano di pace predisposto dall'ONU, che è un piano di pace che non soddisfa una delle due parti in causa, il governo di Tripoli, che infatti non ha firmato l'accordo. Su cosa non sarebbero soddisfatti? C'è un piano di pace siglato con il contributo determinante dell'Italia, siglato in Marocco la settimana scorsa e sponsorizzato dall'ONU, che prevede nuove istituzioni in Libia. Quel piano di pace è stato accettato dal governo di Tobruk, ma non è stato accettato dal governo di Tripoli. Quindi motivi di governo del territorio? No, motivi di risentimento con il ruolo che l'Italia ha avuto in queste consultazioni di pace. L'Italia viene accusata da una parte delle milizie libiche di voler favorire l'altra parte. Quindi una guerra tribale, ma l'ISIS non è possibile, c'entra qualcosa? L'ISIS può, da un punto di vista logistico sì, nel senso che Sabrata, che è una città a 20 chilometri dal luogo dove è avvenuto il rapimento, è una città dove c'è la presenza dell'ISIS, ma fosse stata l'ISIS avremmo già avuto qualche rivendicazione. Ma sono stati poco attenti gli italiani? Beh, diciamo che se vengono confermate le notizie legate al fatto che loro hanno attraversato la frontiera in tardo pomeriggio e sarebbero arrivati nella zona fra Zawi e Zuara dopo il tramonto, beh, quella è una zona dove io stesso e tanti altri colleghi siamo stati soggetti a colpi di arma da fuoco e siamo caduti vittime in imboscate parecchie volte. Quindi non sì. Era certo prudente avventurarsi di notte in quelle zone senza una scorta armata. Grazie. Grazie a te.